cominciare questa serata. Buonasera a tutti, io sono Padre Curru, sono bibliotecario qui alla Biblioteca Claudio Augusta e vi do il benvenuto a questa serata. Se non ci fosse stato questa mattina, diciamo brevemente che questa è un'iniziativa organizzata in collaborazione con l'Associazione Scrittori Bolzano e praticamente è voluta essere un'iniziativa dove abbiamo in qualche modo raggruppato qui, sono stati raggruppati qui tutti gli autori che negli anni, la maggior parte dei quali hanno già presentato o comunque hanno presentato le loro opere alla Biblioteca Claudio Augusta, e questa vuole essere un'iniziativa per incontrarsi e rafforzare la collaborazione con questa neonata Associazione Scrittori Bolzano. Gli appuntamenti seguiranno anche domani, domani mattina dalle 10 alle 12 e domani pomeriggio di nuovo dalle 17 alle 19. Ringrazio chiaramente l'associazione e ringrazio anche Paolo Mazzucato per essere qui con noi questa sera. Io lascerei la parola subito a Franca Karob, vicepresidente dell'Associazione Scrittori Bolzano, e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie a te Patrick. Noi abbiamo già speso alcune parole già stamattina, però qualcosa magari va necessario riprendere. Questa iniziativa è promossa dall'Associazione Scrittori Bolzano ed è la sua terza edizione, questa volta per la prima volta qui al Centro Treni in collaborazione con la Biblioteca Claudio Augusta. Diciamo che abbiamo mantenuto la denominazione di settimana, anche se settimana è stata così compattata in due giorni, con un'estensione quindi temporale in senso verticale anziché orizzontale come in genere abbiamo sempre fatto, e questo forse al mattino ci penalizza un attimino, ma cercheremo di recuperare poi al pomeriggio. Ecco, quello che mi premeva sottolineare a questo punto è il fatto che la convinzione primaria di questa iniziativa, di questa manifestazione, è l'obiettivo di farci conoscere, ma soprattutto di farci conoscere come gruppo. Come gruppo, come quindi ridurre quello che è l'aspetto personale dell'autore, ma piuttosto valorizzare quello che è l'impatto sul territorio come una manifestazione vetrina, un'esecuzione orchestrale del gruppo, perché è il gruppo che dà forza poi indirettamente anche al singolo autore. Sono alla ribalta 16 autori su 85 complessivi, che sono appunto i nostri soci, e abbiamo pensato anche di articolare le giornate con la presenza, con la preziosa presenza di 4 moderatori. Oggi è la volta del dottor Paolo Mazzucato, che ringrazio. Lui è naturalmente programmista e regista RAI, autore e conduttore della fortunata trasmissione rubrica culturale Zeppelin. Ecco, allora il palinsesto di oggi prevede la presenza di 4 autori. Iniziamo con Cristina Mattà, poi Leonardo Bartoli, Italo Chirigato e chiudiamo con Ettore Frangipani. Grazie. Buonasera, io sono felice di essere qui con questi 4 autori che saranno nostri compagni di dialogo. Cristina Mattà ha già preparato un programma, nel senso che abbiamo concordato che adesso faremo 2 chiacchiere insieme, ma poi lei ha preparato un video. Perché? Perché questa, la sua attività di scrittrice in realtà ha una radice molto profonda anche nel mondo dell'arte, dell'arte visiva. Lei è brissinese di nascita, vive a Bolzano, ha lavorato per una vita come restauratrice, dico bene, forse questa è una cosa molto interessante che possiamo condividere con i nostri presenti. Sì, restauratrice per 35 anni. Di quadri? Di dipinti ad olio, sì, su tela e di affreschi. Sì. Va, prego. Di dipinti ad olio e ad affreschi. Sì. Quindi ha lavorato sia nello studio, nell'atelier, che nei luoghi esattamente dove... Esatto, nelle chiese. Il lavoro più difficile che ha fatto? Oddio, è difficile dirlo perché il lavoro da noi è sempre diverso, ogni restauro è diverso, cioè non ce ne sono due uguali, quindi uno dei più difficili forse era il Castello del Buon Consiglio, il Dosso Dossi e il fratello, ecco, che abbiamo fatto, dovrebbe essere gli dei dell'Olimpo. Gli dei dell'Olimpo addirittura. Allora, questo lo chiediamo perché Cristina Mandà lavora principalmente con la poesia, quindi con le parole rarefatte, con le parole scelte, con le parole accostate, piano piano, pezzettino per pezzettino. E prima di entrare in questo suo libro, che è l'ultimo che pubblichiamo, che è Mascherade, che è di fatto una collaborazione tra un artista visivo e la sua parola, le chiedo la sua passione per gli haiku, che vorrei che spiegasse anche a loro. Beh, cos'è un haiku e perché ci si è appassionato? Infatti al giardino segreto lì dell'Hotel Elefante sono stati esposti haiku su tavolette di legno e di terracotta. Io haiku l'ho scoperto per caso, però devo dire che è una sfida. Che cos'è un haiku? Diciamo che non lo so. Diciamo che è una forma di poesia giapponese che si definisce anche il bonsai della lirica, cioè della poesia, perché è fatta solo di tre righe. Cioè la prima riga di 5 sillabe, la seconda di 7 e la terza di 5. E di lì non si scappa, non sta dentro questa cornice. Ci sono regole ferree, poi deve essere legato alla stagionalità, cioè nel haiku si deve capire che stagione è, non è che deve essere detto inverno, estate o primavera, però lei deve capire da una parola o da un gruppo di parole che si tratta di una data stagione. Quindi se noi adesso componessimo un haiku dovremmo dare conto che siamo in autunno. Certo. Non necessariamente, magari c'è andato la foglia oppure già. Esatto. Poi appunto adesso c'è anche il haiku libero, cioè dove non si attengono più alle stagioni, però io faccio parte del gruppo haiku di Monaco, dove noi abbiamo una maestra giapponese che ci tiene molto alla forma. Ecco, allora questo per introdurre a come ci si può accostare alla poesia, attraverso una cornice molto stretta oppure attraverso un filo conduttore, perché Mascherade è una serie di racconti di poesie scritte sia in italiano, sia in tedesco originariamente che in italiano, tradotte dalla stessa Cristina Mandà, ma con l'aiuto anche di un'altra persona che ha limato, mi ha detto, questi versi, tutti accomunati da un tema, da un filo conduttore, che è quello della maschera, che è un tema gigantesco, grandissimo, maschera intesa in diverse accezioni. Sì, infatti io posso dire due parole di come è nato questo libro, no? Perché prima di essere un libro, allora io ho conosciuto per caso, ma per caso a volte sa che non esiste. Ho conosciuto un pittore che vive in Norvegia, ma di origine germanica, e abbiamo scoperto che tutti e due praticamente nelle nostre opere trattavamo il tema della maschera. Maschera che appunto, come diceva anche Pirandello, no? Che nella vita si incontrano più maschere che veri volti. E da lì poi lui, conoscendo uno psicologo di Amburgo, questo psicologo ha avuto l'idea di fare un set di carte, cioè carte con davanti l'immagine di Evers e su dentro la mia poesia, sempre sullo stesso tema, e di impiegare questo set nella psicoterapia. Quindi in pratica io lo spiego, cioè da uno psicologo, da un psicoterapeuta, arriva una persona con la sua questione da risolvere o da affrontare, e per affrontare questa questione lo psicoterapeuta somministrava in qualche modo queste immagini, opere d'arte, dietro un suo commento poetico. Sì. E poi chiede, fa delle domande specifiche al paziente, tant'è vero che lui ha fatto anche un libretto di istruzioni per il set che si chiama in tedesco Anregungen zur Selbstreflexion, cioè suggerimenti per l'autoriflessione. Il primo libretto era per un pubblico, diciamo, in genere. Poi ne ha fatto un altro proprio per i suoi colleghi psicologi. E questo set effettivamente viene usato nella psicoterapia. Quindi le sue poesie sono più domande, sono più suggestioni. Che cosa sono le ma poesie? Sono anche, penso che siano prese di coscienza, domande anche, sì, ma in fondo poi anche prese di coscienza su quello che è la vita, su che cosa ci pone la maschera nel rapporto con l'altra persona. E in fondo è una specie, come diceva anche la dottoressa Cegna nell'introduzione, una specie anche di viaggio in un labirinto, perché appunto anche le immagini di Eva sono così semplici da interpretare. Come le avete copiate queste poesie di immagini? Scelta sua, scelta di Alfred Edwards o scelta da un psicoterapeuta? No, lui, Edwards mi ha mandato tutte le foto ovviamente, e io 4 o 5 li ho trovato, perché trovavamo questa corrispondenza fra noi due. Ho già trovato poesie già scritte, e le altre, che sono state quasi 40, le ho scritte io proprio ispirandomi direttamente alle immagini, quindi sono nate proprio per le immagini. E penso che sia un esperimento più unico per Aro, questo non riuscirei neanche più a ripeterlo. Quindi forse adesso, esagerando forse un po', potremmo anche dire che queste sono poesie terapeutiche. Eh? In qualche modo sì, ma l'arte ha un coso terapeutico, ha un effetto terapeutico, sia su chi, sull'artista, sia secondo me anche sul fruitore. Questo viene ancora troppo sottostimato, questo effetto terapeutico dell'arte. Senta, c'è un problema, una questione aperta sempre con i libri illustrati. Questo non è un libro illustrato, diciamolo chiaramente, no. È un libro con immagini. Esatto, esatto. È un intreccio, io lo chiamerei un intreccio fra arte e poesia. Quindi bisogna leggere con un occhio sull'immagine e con un occhio mentre sull'immagine leggere la poesia. Esatto. Perché l'ha voluto scrivere anche in italiano, essendo nato peraltro questo tipo di lavoro in tedesco? Ma io scrivo già da anni anche in italiano, per cui mi veniva, era quasi una sfida, ma anche quello. E dico, dai, insomma, è un peccato, in Germania ci pensa l'amico Evers a presentarlo alle varie gallerie, perché lui espone in diverse gallerie ad Amburgo, e pensa, se fosse anche in italiano, forse interessa, insomma, io penso che ho sempre cercato di fare da ponte fra il tedesco e l'italiano dopo. È un discorso lungo questo, di cui parleremo anche qui con altri suoi colleghi autori questa sera. Lei predilegia però o la scrittura breve, per lei il suo curriculum ha scritto 8 storie brevi disastrose. Ma questo è il libro, diciamo, che non ho scritto io, ma l'ho tradotto io in italiano, le 8 storie brevi. Disastrose, però. Sì. E però è la poesia la dimensione nella quale lei si esprime. Sì. Perché anche la più ardua, forse. Ma perché a me ho scoperto, quasi già ero, come dire, convinta e rassegnata che la poesia non si vende, no? Però ho scoperto proprio tramite Facebook, stranamente, che c'è un sacco di gente invece che ama la poesia, quindi anche se il mercato non ne tiene conto, ho continuato a scrivere perché mi hanno dato, come dire, mi hanno incoraggiata, e poi perché sono convinta che la poesia arrivi all'inconscio. Cioè, non è, diceva anche Rainer Müller, diciamo, la parola poetica va oltre il codice linguistico e arriva a toccare certe corde dell'inconscio e certe emozioni rimosse, quindi tant'è vero che io certe volte rileggo le poesie e dico, però, capito? Cioè, non mi vedevo così. No? E questo penso sia proprio una prerogativa della poesia. E cioè, infatti una cosa che mi volevo chiedere è se lei si legge, però già mi ha risposto. Sì, sì, no, no. A distanza? A distanza, devo sempre mettere un po' di tempo perché dopo appunto ho l'idea più chiara, poi o la cambio la poesia, capito? Oppure la elimino, oppure mi va bene. Senta, le faccio una domanda, perché tutto questo libro è fondato sull'idea di maschera, no? Io le chiedo solo, e poi magari so che lei ha preparato un video, certo. 7-8 minuti, chi vuole che noi vediamo, giusto? E ci tiene sì, con presentazione sì. Il commento, allora dobbiamo rubare qualche minuto alla nostra conversazione, ma per lei la maschera, che può essere una difesa anche, no? Non necessariamente un nascondimento. Sono d'accordo. È uno strumento che noi utilizziamo in maniera positiva o è una nostra risorsa? Ma secondo me diventa pericolosa la maschera, che tutto sommato ha una funzione sociale, quando viene interiorizzata, cioè che si diventa tutt'uno con la propria maschera. Questo penso è quello che fa paura. Ne abbiamo una sola o più di una? Ne abbiamo diverse. Cioè come ci comportiamo a volte in modo diverso con le diverse persone, no? E ne abbiamo più di una. Però l'importante è che non venga troppo interiorizzata questa maschera, che si sappia che serve, no? E che serve in un certo senso, ma che poi uno riesca anche a vedersi dentro a se stesso. Che non ci soffre, insomma. Quando si scrive poesia si può avere una maschera? No, assolutamente no. Si deve cercare veramente la verità in se stessi. Cioè non cadono le maschere. Ed è anche giusto, insomma. Cioè, non sarebbe arte se viene fatto con la maschera, insomma. Allora, Cristina, adesso ci guardiamo il suo video. In questo poco tempo, però il video che parla di lei parla di quello che abbiamo raccontato, esatto. E poi salutiamo i nostri ascoltatori e lettori. Questo è Orlando Mezzavotta, che abbiamo dimenticato di dire, è letterato e attore che ha animato le poesie e poi ha fatto la recita di 7 poesie perché gliel'ho chiesto, perché ha una voce stupenda e le ha interpretate in modo meraviglioso, direi. Rigidito, tu e io c'eravamo. nella vita trascorso, andato in piccolo tempo, passato il colorato gioco delle maschere, da ciò fu pensato, sognato e tessuto e mille volte disfatto, io nel tu, io nel noi, il piccolo tempo, più molto lieve e tutto si riprese per poi trascinarlo nel fiume che vanta la vita. Le maschere sono da tempo scambiate, il declino riconosce solo ciò che era apparenza ed ogni giorno riavvolge quello che accadde, fatto di pietra rimane un sogno, l'acqua lo scalerà granello per granello. Erano tempi che mi scavavano dentro, erano tempi in cui smarrita e come cieca attraverso gli spazi corrosi del silenzio, affaticata, vagavo, ferita dai dubbi spinosi, nelle fitte sterpaglie, qua e là riposando, nelle scarse rature, là dove i fiori segreti cercavano di dare quiete al mangoscioso vagare, strade fragili, incerte, con scritte che non capivo ed un incrocio, indice solo di vie senza uscita. Poi ecco cosa insperata, la nebbia si sorse a rendere visibile quella meta scomparsa che si fece vicina, tanto vicina quanto non avrei mai osato pensare. Un curriculo intrappolato in una rete tra le maglie strette del caso, della necessità e della preziosità, precocemente gettato su un mucchio confuso, caotico, in una lotta strenua per conquistare uno spazio e figurarti essere in libertà a dispetto di tutto e contro ogni evidenza, respirando a fatica, solo in un corroviglio, nella falsa credenza di non poter mai perdere, nella follia e illusoria di decidere la tua vita, felice come Sisifo che rotola la pietra. Ragnatele di maschere, intrighi e ombra sepolti in oscuri antri, scrollato di osso l'antico fardello, e tuttavia si è incarnata nella pelle la maschera, come una delicata creatura della mia infanzia, che continuava a legarmi a te nel chiarore del giorno. L'ho riconosciuta, nuda e indifesa e venuta alla luce, e diventò nostalgia nel viso dell'ombra, una ferita che resta nel mio tradito in circolo, ma alla fine non ci sarà una fine, e lo stesso fiume C'è un progetto, un altro libro, forse anche in collaborazione con lo stesso artista. Bene, vedremo. Allora, in bocca al lupo, e chiaramente Cristina Manna è qui se volete chiacchierare con lei, è naturalmente a disposizione. Grazie molte, grazie Cristina Manna. Grazie. Ci chiedo di dire che per chi volesse c'è la possibilità di acquistare i libri dei nostri autori. Grazie. Ci sentiamo forse. Allora, dopo aver salutato Cristina e Mantà, diamo il benvenuto a Leonardo Bartoli. Buonasera, ben trovato. Accogliamo un applauso anche lui. Assolutamente si mette in gioco, perché poi andrà a raccontare i propri libri. In questo caso è La Nuvola, Daniele, il legame tra i due mondi. È sempre un modo abbastanza, come diceva Cristina e Mantà, intimo, no? Di mettersi davanti al pubblico. Per cui la prima domanda che facciamo a Leonardo è proprio questo: da dove viene questa, oserei dire, necessità di raccontare attraverso i racconti, un po' anche attraverso i romanzi, anche un po' se stessi? Certo. La scintilla della scrittura dove è nata? Dalla lettura, spero. Grazie a tutti. Posso spendere due parole? Certo, possiamo anche prendere in mano il microfono, così è più naturale. Sì, grazie. Innanzitutto grazie veramente all'associazione, soprattutto a Franca per la sua costante spinta propulsiva, grazie Presidente. Grazie a amici e conoscenti che sono qui questa sera, e un particolare ringraziamento anche alla Valeria Trevisan che nella sua struttura ha qualche anno fa accolto per prima la presentazione di quest'opera. Nasce dalla lettura, ma la lettura di fumetti in primis. Io ho cominciato a leggere da bambino fumetti e sono approdato alla lettura dei libri relativamente tardi, cioè all'età di 10-11 anni, avendo fatto veramente scorpacciate di fumetti, soprattutto di fumetti di supereroi americani che sui Michael in questi anni stanno tornando in auge grazie soprattutto alle produzioni di film della Marvel. No, questo è importantissimo, perché questa è un'associazione di scrittori, gli scrittori hanno l'ambizione di fare letteratura, e io allora chiedo a Rinaldo Bartoli, che è un appassionato di fumetti, se i fumetti sono letteratura, siccome lo pensiamo tutti e due, perché sono letteratura e fumetti? Questa è una bella domanda. Forse non è un caso che il fumetto venga definita la non arte. Io penso che sia letteratura a tutti gli effetti. Per tanti anni hanno vissuto, come dire, quasi un ruolo cadetto all'interno del panorama delle espressioni artistiche, e adesso, grazie diciamo al supporto dell'arte cinematografica, alcuni tipi di fumetti, alcune creazioni fumettistiche stanno raggiungendo anche il grande pubblico, e io chiaramente sono contento quando anche grazie anche al cinema poi si possa comunque andare a analizzare l'opera, diciamo, da cui è stato tratto il film, che normalmente è un fumetto, come si usa dire attualmente, una graphic novel, quindi una che nobilita un po', no? Per gli italiani, ma è sempre comunque un romanzo per immagini. Esatto. Perché letteratura allora, romanzo per immagini? Ma è letteratura perché la letteratura è una forma di arte, e l'arte è uno dei canali espressivi con i quali ci si può raccontare la propria visione del mondo, e la letteratura utilizza la parola scritta, il fumetto utilizza le immagini, che sono chiaramente anche esplicate da parole, dalle classiche vignette, e secondo me, io quello che ho cercato di fare è cercare di creare una felice combinazione fra queste due modalità espressive. Io ho ragionato in termini di immagine, nel senso che la storia me la sono creata, come dire, in maniera didascalica, pensando ai vari avvenimenti all'interno dell'opera, e ho dovuto rincorrere le parole per poter descrivere quello che avevo in mente. È stato un lavoro molto laborioso, faticoso. Infatti, dopo la scrittura della tesi di laurea non mi sono, diciamo, mai cimentato in una maniera così intensa con la scrittura, quindi questo libro, tra le altre cose, mi ha permesso anche di recuperare l'utilizzo della parola, ecco, forse una frase più forte, ma attraverso l'immagine, perché poi il romanzo è anche un romanzo ancora una volta illustrato, dico ancora una volta perché ne ho appena parlato con Cristina Mattà, che ci ha parlato di poesia in qualche modo, e immagine della nuvola contiene disegni che sono anche tuoi. Sì, certo. E uno dei miei sogni da bambino era quello di diventare fumettista. Poi, come spesso capita, la vita mi ha portato in tutt'altra direzione, cioè studiare economia e adesso lavorare, devo dire, felicemente nella pubblica amministrazione. Però, diciamo, per un debito di riconoscenza nei confronti del fumetto e dell'arte in generale, per cui nella maggior parte del mio tempo libero io curo questi aspetti, come può confermare anche la mia compagna, che, diciamo, mi osserva mentre leggo, scrivo, faccio, eccetera, che mi dà anche dei consigli. Spero che supporti questa tua passione, naturalmente, in qualche modo. Allora, questo romanzo è un romanzo che noi dobbiamo dare qualche indicazione a coloro che ti leggeranno. È un romanzo fantasy, d'accordo? In cui c'è Daniel e il legame tra i due mondi. Allora, i due mondi quali sono? E poi la seconda domanda è se, visto che tu sei capitato qui dalle nostre parti a lavorare, se si pesca anche dal patrimonio di leggende, di grande riferimento con forze ancestrali che l'Alto Adige propone, insomma, non nelle sue tradizioni. Certo. Ora, i due mondi sono il nostro mondo così come lo conosciamo, il mondo terrestre soprattutto, e ho voluto, come dire, creare questa dimensione parallela che è possibile raggiungere attraverso un varco che è appunto una nuvola come tutte le altre, una nuvola che non si distingue dalle altre, che tuttavia contiene internamente questo varco. E due parole sulla mia storia, perché non sono altoatesino, come probabilmente si capisce anche un po' dall'accento, sono di origini pugliesi, sono di Bari, e ho cominciato la stesura di questo romanzo nel 2002, allora lavoravo in Germania ed era un periodo abbastanza difficoltoso per la mia vita personale e professionale, in quanto subito dopo l'attacco delle Torri Gemelle in blocco siamo stati licenziati presso l'istituto finanziario presso cui lavoravo con i colleghi, perché eravamo appunto in periodo di prova, e quindi ho vissuto in Germania dei lunghi mesi da disoccupato, e la giornata consisteva nel mandare via curricula a destra e manca, e nell'attesa di una risposta che però tardava ad arrivare. Infatti non arrivavano le risposte, tant'è vero che alla fine ho preso questa decisione di trasferirmi in Alto Adige, dove come dire, la mia vita ha assunto poi una tutt'altra direzione. I due mondi non sono la Germania, no, sono il Google, proprio per del prendere, ma esatto. E in quel periodo, in questo periodo di disoccupazione, per me la scrittura ha avuto un effetto, diciamo, liberatorio, catartico quasi, perché mi ha permesso in qualche modo di liberarmi di tutto questo senso di frustrazione, di tutti questi sentimenti negativi, anche di un po' di invidia che chiunque sia stato disoccupato conosce molto bene. E mi ha permesso di liberarmi di tutto ciò perché mi ha permesso di creare il mio mondo, o di creare i miei mondi, e in quanto l'atto della scrittura, l'atto creativo, era un atto di imperio di mio personale, che potevo decidere ogni giorno, sia quando cominciare a scrivere, sia per quanto scrivere, e quindi mi ha permesso di riappropriarmi un attimo di una forma di indipendenza personale. Poi, diciamo, subito dopo la scrittura del romanzo, mi sono sposato in Alto Adige e ho dovuto chiaramente occuparmi di altro, però poi ho mantenuto sempre il timone dritto verso la conclusione di quest'opera, e nel 2009, dopo quindi 7-8 anni di gestazione, ho deciso di autopubblicare questo romanzo, e chiaramente aggiungendo anche, perché la storia era comunque in embrione quando l'ho cominciato in Germania, attingendo anche al clima che ho vissuto qui. Il clima in Alto Adige per me è comunque ricco di tanto immaginario, di tante storie, cioè il vedere, non so, il cielo azzurro di questi giorni penso che sia il massimo come ispirazione per chiunque vuole creare qualcosa, e siccome buona parte del romanzo è ambientato nel cielo in generale, l'Alto Adige mi ha aiutato tantissimo. Chi è Daniel, che è il protagonista del racconto? Daniel è un adolescente, è una persona, come dire, un adolescente normale, un adolescente come tanti altri, che un giorno si trova ad essere catapultato in questo mondo, e una volta che è lì scopre di avere delle facoltà particolari, e soprattutto scopre di esserci già stato in una delle sue vite precedenti. Quindi per me è stato anche un modo, la scrittura di questo libro è stato anche un modo per affrontare il mio interesse per la religione, in generale, e per aggiungere da questo dal principio, dall'istituto della reincarnazione, che secondo me ha un valore, come dire, rappresenta come una forma di speranza per tutti noi. Io mi piace crederci, insomma. Quindi tanto Daniel quanto altri personaggi scoprono all'interno di questa storia chi sono stati nelle vite precedenti e cosa possono diventare, cosa la vita li sta portando a diventare nello svolgimento di questa avventura. Il genere fantasy è un genere che va molto ultimamente, genera grandi volumi anche di vendite nel mondo dell'editoria, che è un genere che ci porta molto lontano da quella che è la nostra quotidianità, di fatto, no? Potrebbe essere vissuto come una sorta di fuga, effettivamente, no? Uno si legge un romanzo fantasy per abbandonare sostanzialmente quello che è l'approccio al reale. Paradossalmente questo romanzo però è nato da una contingenza molto concreta, ci ha detto Leonardo Bartoli. Per lei che cos'è questo genere? È un luogo di fuga o un luogo metaforico per parlare invece di noi o di lei? Allora, è entrambi, perché è sicuramente un luogo di fuga, però fosse solo per il fatto che questo luogo di fuga deve avere una sua coerenza interna, deve avere una sua architettura, deve avere delle logiche che rendano credibili queste dimensioni che si vengono a creare, non soltanto per chi scrive, ma soprattutto per chi legge. Perciò quando si parla di un altro mondo, fondamentalmente si parla di un mondo che funziona verosimilmente a come funziona il nostro, perciò non è mai troppo distante dalla nostra quotidianità. Lei ha detto che proviene dalla lettura dei supereroi, no? Che se non mi vergogno. No, quello è il suo supereroe preferito, allora. L'uomo ragno. Oggi vanno anche, ci sono tantissimi film che raccontano le debolezze dei supereroi, no? La loro problematicità. Daniel è un adolescente, un ragazzo giovane, quindi di per sé fragile e vulnerabile. Forse è questa la chiave di lettura contemporanea, no? Sembrava forse paradossale 50 anni fa, quando i supereroi sono stati imitati, 60 anni, forse anzi addirittura 70, durante la Seconda Guerra Mondiale, che potessero avere una loro durevolezza nel tempo, proprio fondata su quelle che sono le caratteristiche di debolezza. Sì, esatto. Allora, in origine i supereroi, soprattutto i supereroi americani, furono creati quasi come contraltare rispetto a quello che stava succedendo in Europa, quindi il nazismo, la figura di Hitler, eccetera, eccetera, e l'America così lontana, che poi veramente si è avvicinata contribuendo alla soluzione del conflitto mondiale, ha creato questi eroi per fare in modo di quasi sminuire questa mitizzazione del superuomo che all'epoca, come dire, ha determinato poi tutto quello che conosciamo. Poi nel corso degli anni, appunto, questa rappresentazione iperbolica del supereroe ha un po' stancato, soprattutto quando poi la società si è un po' normalizzata, sia per un occidente che negli Stati Uniti. E ci sono stati degli autori, fra cui Alan Moore, ad esempio, che hanno rivalutato i supereroi, diciamo, quasi secondari rispetto al Superman, che funziona invulnerabile, piuttosto che a Thor. C'era la criptonite, però, la criptonite, esatto, c'è sempre un momento debole. E quindi, non so, questo perché è il L'Uomo Ragno è stato sempre il mio supereroe preferito, perché è un supereroe con super problemi, e i super problemi sono i problemi della sua quotidianità, perché non sa come sbarcare il lunario, non sa come aiutare sua zia che è malata, deve condurre questa doppia, deve gestire queste due identità, e alla fine molto spesso non ce la fa. Ecco, alla fine si scopre che i supereroi probabilmente siamo noi, semplicemente rappresentati in altro modo, e che si confrontano, che si scontrano con i problemi che abbiamo tutti noi, insomma. E in Daniel cosa ritrova di se stesso, Leonardo Bartoli? Beh, non so, Daniel è chiaramente il protagonista di quest'opera, però lo sento da me un po' distante, mi sento più vicino ad altri personaggi. Perché ho permesso a Daniel, a differenza di quello che è successo a me, di vivere un percorso di crescita ecco, molto ben strutturato. Lui si trova in un altro pianeta, cioè va in un'altra dimensione, qui scopre in maniera dolorosa di esserci stato, vive diverse avventure anche, diciamo, in diversi contesti all'interno di questo reame. Conosce anche l'amore, si innamora per la prima volta, risolve tanti dei suoi problemi e poi ritorna sulla Terra. Quindi il percorso di crescita di Daniel è, come dire, doloroso però concentrato. Invece io mi identifico più in altri personaggi, tra cui, non so, il capomago, che si chiama Odranoel, che sarebbe il mio nome. È contrario. Al contrario. Perché è più umano, è più, come dire, deve gestire più gli avvenimenti che accadono improvvisamente, deve stare dietro alla volontà del re, cioè è più, come dire, legato a problematiche contestuali, che non è necessariamente alla ricerca del suo percorso di liberazione di quello che ha vissuto. Quindi io avrei auspicato un percorso simile a quello di Daniel, il mio è stato diverso. È stato quello di Odranoel. Allora, lei ci ha detto che questo libro è nato dalle immagini che ci sono nel testo, quindi ha dovuto in qualche modo inseguire la parola partendo dall'immagine. Se questo libro, di 235 pagine circa, fosse un fumetto, quanto sarebbe grosso? Una bella domanda. Posso rispondere così: se fosse un film, sarebbe un film abbastanza lungo, perché ho cercato di, cioè sono in tutto 26 capitoli più l'epilogo, ho cercato di mantenere dei capitoli, diciamo, brevi, abbastanza, come dire, veloci, per mantenere alta anche la lettura, l'attenzione del lettore. Penso che con una graphic novel ci vorrebbero almeno il doppio delle pagine. Ecco, e di più. Di più. Cioè, cioè il pregio secondo me della scrittura, che la scrittura permette anche di evocare immagini, non necessariamente di rappresentarle. Quindi io ho, come dire, sfruttato molto la capacità evocativa delle parole per come dire, far immaginare al lettore alcuni, alcune immagini che altrimenti a volerle rappresentare una per una ci vorrebbe tanto tempo. Quindi più tavole, più due volumi, allora diciamo così, la graphic novel di Leonardo Bartoli, La nuvola, Daniel, il legame tra i due mondi. Questo libro ci ha detto che sia da qualche tempo fa, nel frattempo ha scritto qualcos'altro? Nel frattempo ho scritto, sì, due storie brevi che ho pubblicato sui social media, e al momento sto lavorando ad un romanzo, sono in contatto con un'agenzia letteraria e un lavoro molto duro. Sempre genere fantasy? Sempre genere fantasy, però qui non c'è un'altra dimensione, tutto si svolge tra la Germania e l'Italia, in particolare tra la Germania del Nord e Taranto, e ha a che fare con l'Ilva. Benissimo, allora l'aspettiamo. Grazie Leonardo Bartoli, aspettiamo l'Ilva e la Germania. Grazie. Perfetto. tira un po' giù senza spegnere. Allora sono le ore 18, abbiamo uno scadenziario fittissimo, finora siamo stati molto puntuali, e allora accoglierei con un applauso Italo Ghirigato, che è il nostro terzo ospite di questa sera. Prego Italo, il microfono se vuoi, prego, se non lo fa, più confidenziale. Allora Italo Ghirigato questa sera ci presenterà l'ultimo suo lavoro, Südtirol Agrodolce, quindi bidimensionale, diciamo così, l'Alto Adige di cui ci parlerà. Ci sono sul tavolo alcuni suoi altri volumi, libri scritti precedentemente. Siccome Italo Ghirigato lavora nel mondo della comunicazione, quindi conosce un po' in qualche modo come si cattura l'attenzione del pubblico e dell'uditorio, giustamente ha portato subito, cogliendo la palla al balzo rispetto ad una statistica, che è stata una classifica che è stata stilata proprio ieri, di cui oggi i giornali hanno dato notizia, per cui Italo Ghirigato, autore di Südtirol Agrodolce, che come detto ci anticipa una duplice realtà, ha scelto un titolo di prima parte per presentarsi. Ok, grazie, buonasera, grazie anche alle strutture, alla Associazione Scrittori e alla biblioteca che ci ha dato questa bella opportunità come scrittori. Abbiamo visto tutti oggi in prima pagina e anche nelle pagine nazionali Bolzano, qualità di vita al top. Südtirol Agrodolce. Ecco, questa prima pagina è la parte dolce. Adesso parliamo della parte agro, quindi della parte un po' più aspra. E cominciamo con audiovisivo. Vedremo un video e dopodiché verrete coinvolti in questa performance che Italo Ghirigato ha pensato. Sì, io ho distribuito vari bigliettini in cui ci sono delle frasi tratte dal libro. Anzi, una anche a me. Grazie. Anche a te. Una, a due, va bene. Due, che sono significative. E gradirei anche una certa interattività, se volete. Quindi, se volete leggere la frase o comunque chiedermi qual è la parte del libro che è in cui è presente questa frase, sono qui. Intanto vediamoci la trama, la storia. Non aspettatevi che vi dica tutto, naturalmente. Vuole anche un po' incuriosirvi. La storia è in una biblioteca di Saturno, in un inverno nuvoloso. Un quarantenne bolzanino che soggiorna per perfezionare la lingua tedesca si imbatte in una ragazza che studia di parlare. Si cucina, si parlano, si conoscono. Lui racconta dell'infanzia trascorsa nella campagna sudtirolese tra i masi e i confini della città e della lingua tedesca appresa in modo naturale, ma poi rialzata da quella dei Beatles. Fabio è attratto dai modi femminili e raffinati della ragazza, poi però lei non si presenta ad un appuntamento e fa perdere le sue tracce. Dopo il lungo soggiorno austriaco, Fabio ritorna nella sua città natale, dove l'aspetta una casa vuota e la fine del matrimonio con Tiziana, dopo 20 anni. In campo professionale, Fabio ha i requisiti di studio e di esperienza per dirigere un istituto di formazione nel campo del lavoro di cui è stato promotore. Ma un veto da parte tedesca gli sbaglia la strada. La passione per l'insegnamento e la volontà di dar vita ad un progetto di cooperazione tra i gruppi linguistici lo portano comunque ad accettare una posizione diversa da quella a cui aspirava. nasce così un'istituzione unica in Italia. Della sua vita, ma c'è un lato scoperto, quello sentimentale. È a questo punto che, a sorpresa, è riuscita in scena Emma, la ragazza di Salisburgo. Fabio è affascinato dalla sua dolcezza, dalla sua morbida eleganza e dallo spiegato gusto per l'estetica, ma è deluso per il totale disimpegno sociale e intellettuale. L'incantesimo ancora una volta si trova. In una situazione già così critica, viene ricoverato in ospedale per un improvviso disturbo alla vista. Lì ricompare la ragazza dopo 3 anni che non si vedevano. La sua sensibilità e il suo modo di stargli vicino, accompagnandolo anche in ambulanza per l'esame a Milano, rende Fabio più disponibile. Uscito dall'ospedale, propone ad Emma una breve vacanza a Firenze. Lì sperimentano la loro vicinanza fisica, ma non solo. Le diversità che a suo tempo li avevano allontanati riemergono. Ora però è Emma a mettere in discussione l'idea di Fabio di non considerare il senso della bellezza e dell'estetica come valori sociali importanti. E non accetta la dequalificazione del suo lavoro. Uno stillicidio di lettere di ammonizione si riversano allora sulla sua scrivania. Le accuse: non rispettoso dell'autorità e non obbediente alle disposizioni date. L'azione per escluderlo dalla direzione dell'istituto si fa sempre più scoperta, fino a chiedere per lui un procedimento. Rappresentanti del mondo del lavoro perché si ritorni alla missione originaria dell'istituto, quella di essere l'università del lavoro dipendente e un esempio di cooperazione e di rispetto culturale reciproco tra i gruppi linguistici. Ma non trova persone coerenti fino in fondo con gli ideali professionali. Fabio confida la propria sofferenza a Thomas, amico su tirolese del cuore, ex compagno di università e di lavoro e anche di formatore. Da anni discutono e studiano insieme i problemi etici, impegnandosi in iniziative di convivenza tra italiani e tedeschi. Thomas non vede la possibilità di recupero di Fabio dentro l'istituto e lo consiglia di uscire e mettersi in proprio. Uno shock. Ma anche Emma, testimone del suo logorio fisico e mentale, lo spinge in quella direzione, offrendogli un sostegno economico con un sacrificio personale. Cosa inaccettabile per Fabio, che non vuole sentirsi legato a lei per necessità. Amadeo si convince e si presenta sul mercato della formazione come libero professionista. All'inizio le sue lettere di promozione della propria docenza non ricevono risposta. Poi, come per il ghiaccio a Pomona, goccia dopo goccia, comincia a rischiare. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite. Nei corsi che svolge in Alto Adige e nel resto d'Italia si trova di fronte a sfide formative d'ogni tipo, ma è soprattutto l'insegnamento ai giovani delle scuole professionali che lo mettono alla prova. Con loro deve tirar fuori tutta la sua passione didattica e la sua pazienza umana. Anche Emma ha lasciato un posto di lavoro sicuro. Vuole seguire la sua vocazione per l'estetica e per le cose giuste. Nei suoi viaggi Fabio vive straordinari momenti di accoglienza e molte amicizie, specie femminili. A Varese è affascinato da Sandra, una leader che anche sul terreno duro del sindacato mantiene la sua espressività di donna, il suo linguaggio umano e la sua coerenza. Che ha un posto di rilievo in un'azienda e che risponde ai suoi canoni di una figura impegnata intellettualmente. Concedendosi una sosta in città in sua compagnia, alla scoperta di altri in particolare, nasce una relazione reciproca. Il romanzo si conclude in Sardegna, dove Fabio è chiamato a tenere dei corsi. Gli ultimi, prima della pausa estiva, che lui inizia proprio con una vacanza all'isola. È alloggiato in un hotel su una collina che si affaccia sul golfo di Olbia e da cui vede le navi che attraccano e gli aerei che atterrano. In uno di questi sta arrivando anche la donna che ama. Che deve essere in sala, quindi facciamo anche lui gli applausi perché se cioè, lo ringrazio. Come ringrazio Maria Chia Zanetti che con la sua voce bellissima e tempata. Allora, una storia molto contrastata, non proprio una storia di grande felicità se non alla fine, però una storia che passa attraverso degli snodi che partono da un grande idealismo iniziale e poi in realtà iniziano a zoppicare proprio sul terreno nel quale questo idealismo era cresciuto. Sì, allora intanto diciamo che nel romanzo si intrecciano tre storie. C'è una storia di una persona o di più persone, comunque il protagonista è un uomo che all'inizio è molto maschile, ha una mentalità molto anche impegnata dal punto di vista sociale e intellettuale, però è anche una mentalità ristretta in quel suo ambito e non riesce a capire l'universo femminile e soprattutto le belle cose della vita che sono rappresentate dall'universo femminile, il modo di vestirsi, la cura dell'estetica, le cose, anche i sentimenti, le cose semplici anche della vita, il cibo, eccetera, eccetera. E diciamo che in tutto il romanzo c'è questo incontro e scontro, ma anche la trasformazione di questo personaggio rispetto a questi due universi. E poi c'è, invece, sono due storie di tipo sociale. La prima è quella che parla della occupazione del potere da parte del gruppo linguistico tedesco. Preciso che innanzitutto l'occupazione del potere l'abbiamo fatta noi italiani durante il fascismo, ovviamente, ma anche nel dopoguerra, dove i sudtirolesi non potevano accedere ai posti pubblici, ferrovia, poste, ma anche nelle case popolari, eccetera, eccetera. Negli anni 90 la cosa si è rovesciata e quindi è stato il gruppo sudtirolese che, dove è stato possibile, e in questo romanzo si cita proprio un episodio molto forte in questo senso, in cui si è occupato il potere pur non avendone la competenza. E quindi è tutto un periodo in cui se ne è parlato tanto, anche negli anni 90, dove gli italiani non potevano che essere solo vice. E l'altra storia è invece quella di chi rappresenta il mondo del lavoro, che qui purtroppo ha perso una grande occasione. Qui si è creato questo istituto che poteva essere un terzo polo di formazione della classe dirigente in Alto Adige insieme all'università e all'Accademia Europea, e invece ha fallito per ottusità. Quindi sono tesi piuttosto forti queste che ci sono in questo romanzo, in cui a questo punto, ha sentito quello che Italo Pigliato ci ha detto, mi viene da chiedere: prevale l'agro o prevale il dolce in questa visione dell'Alto Adige contemporaneo, dell'Alto Adige che perlomeno viene dipinto in questo romanzo? Non prevale né l'agro né il dolce, e quindi è una coerenza rispetto al titolo: rimane l'agro e il dolce. In una dialettica quindi che pur tuttavia, appunto abbiamo iniziato il libro, produce anche questo. Una contraddizione, un controsenso o una coerenza? No, non è un controsenso assolutamente, perché lì abbiamo, nella statistica, abbiamo una serie di aspetti molto evidenti della vivibilità che non possiamo assolutamente contestare. Io nel mio lavoro viaggio in tutta Italia e vedo cosa c'è in giro e ritorno molto, molto volentieri in Alto Adige. E sono anche contento che l'amministrazione sia soprattutto in mano al gruppo sudtirolese. Quindi in questo senso faccio anche capire che il romanzo assolutamente non è un romanzo contro il gruppo di lingua tedesca, assolutamente, ma contro un episodio o contro alcuni aspetti del gruppo di lingua tedesca, che tra l'altro appunto ha imitato anche il peggio del gruppo di lingua italiana. Ecco, quindi c'è coerenza in effetti. Poi rispetto al dolce, ecco sì, forse la storia d'amore, quella finisce nella dolcezza. Del resto quella, insomma, quella che addolcisce un po' tutto. Allora io però insisterei sul tema dell'incontro, no? Perché c'è quel disegno appunto che ha fatto benissimo, c'è la Zusammenleben, convivenza, che è una parola che oggi viene usata molto meno. Cioè un tempo era un tema molto forte, adesso sembra essere diventato fuori moda, cioè non è più accettato, benché ci siano moltissimi settori della società che la praticano nella concretezza, però non è quasi più tema di discussione pubblica. Non so se su questo Italo Pigliato è d'accordo, non so in che misura questo rientra in questo romanzo. Sono d'accordissimo su questo. Io sono convinto, è un po' come la democrazia che viviamo anche in questo periodo, che è in pericolo. Allora, tutte le migliori invenzioni sociali dell'umanità, se non vanno continuamente coltivate, se non vanno continuamente esplicitate, se non vanno curate attraverso una continua formazione, rischiano di tornare indietro. E quindi anche la convivenza, Io in effetti lo vedo anche all'interno del mondo associazionistico. Io personalmente a suo tempo ho proprio organizzato tanti corsi di formazione insieme italiani e tedeschi proprio per creare una cultura interetnica, per creare nella mia esperienza un sindacato interetnico per esempio. Ma anche oggi vedo invece che non si fa più questo, si dà un po', come dicevi tu, si dà un po' per scontato, e questo è veramente pericoloso. Quindi in questo senso anche il romanzo, perché appunto è un romanzo, questo voglio anche sottolinearlo, quindi è una storia romanzata, diciamo che la mia ambizione è di fare letteratura, e quindi non è un libro saggistico assolutamente, quindi è romanzata, ma vuole, come dici tu giustamente, anche richiamare come in parte un monito e in parte un incoraggiamento a riprendere in mano l'attenzione alla convivenza. In base anche a quello che così esplicitamente è stato raccontato in questi 10 minuti del romanzo, c'è però una duplice azione che forse può essere ancora una volta, forse questo sì, il punto in cui il romanzo ha uno snodo, no? Sia il protagonista maschile sia la protagonista femminile Emma, dopo un tot di anni, però ci mettono un po' di anni a capirlo, in fondo rinunciano ai propri pregiudizi oppure al loro modo di guardare al mondo. L'uno in qualche modo molto razionale, forse pragmatico, attento a quello che A più B è uguale a B, insomma A più B o quello che si vuole, l'altra invece più versata nell'aspetto diciamo esteriore della realtà. Tutti e due iniziano a dialogare quando si rendono conto che il loro mondo, il loro modo di vedere non è esaustivo, non è universale. Sì, però questo dialogo, come mettevi in evidenza tu all'inizio, vive proprio anche degli scontri e infatti anche degli abbandoni, degli allontanamenti, e quindi non è facile. All'inizio proprio non si capiscono, all'inizio rimangono divisi e distanti, poi pian pianino, ma diciamo che soprattutto lui è la figura maschile che si rende conto che il mondo non è fatto soltanto dall'impegno sociale, soltanto dalle cose seriose per così dire, ma ci sono anche tante altre cose belle, colorate, vive, romantiche anche della vita, e quindi è lui che apprezza la non contraddizione tra i due aspetti. Ecco, questo è, cioè ci possono essere cose molto belle anche apparentemente soltanto superficiali, ma che sono anche interessanti e che ripropongono anche pensieri profondi. Allora rilancio, non è che magari le cose iniziano a funzionare meglio quando uno dei due, e quindi anche di tutti e due in una relazione, non si prendono troppo sul serio, vuol dire il tema che abbiamo citato, ad esempio la convivenza, ma se ne possono citare molti altri in questo libro, iniziano a funzionare quando non vengono vissuti come dei totem, come qualcosa di sacrale. Sì, sì, infatti ci sono delle battute, ridono, quando cominciano a ridere tra loro, a prendersi anche in giro, eccetera, eccetera, allora la cosa si scioglie, sì, sì, sì, è proprio così. Allora, visto che ci sono alcune frasette che girano per il pubblico, che sono state distribuite come, non dico nei baci perugine, insomma, messaggi in bottiglia, se c'è qualcuno che lo vuole pescare o voglia di leggerlo, e magari da quello vediamo la suggestione che Italo Birigato raccoglie. C'è qualcuno che vuole leggere? Eccolo là, perfetto, leggiamo a voce alta. Allora aspetta, perché si viene alla luce prima di tutto, prima di tutto gli occhiali, quindi sulla fiducia leggiamo adesso, ho deciso di leggere sulla fiducia gli occhialetti, anche perché devo chiedere una cosa a Italo. Allora, sbucando dal fondo del quadro, gli aerei si avvicinano all'isola rallentando bruscamente, come voler dare un ultimo sguardo dall'alto prima di scendere e confondersi sulla terraferma. Anche lei arriverà con uno di quei voli. Esatto. Volevo chiedere a Italo come ci arrivo e come arrivo. Non ho capito domanda, che senso? Ecco, dico, anche lei arriverà con uno di questi voli. Ecco, sì. Ma e con una brusca frenata Ah, siccome questo è il finale, mi dispiace ma non ti rispondo. L'unica frase che non c'ho a commentare, ce n'è un'altra. Ah, io ne ho una qui. Se nel soggiorno il profumo d'arancia è ancora nell'aria, la torta di carote ha lasciato poche tracce sul piattino dello Zwiebelmuster e lui rimane lì a fissare il disegno stilizzato sulla porcellana: crisantemi, cipolle e cuori. E immagino che questi tre oggetti tocchi il gatto dia una valenza simbolica. Quale? Sì, lì è un momento in cui intanto apprezza la convivenza con questa donna e anche il modo di preparare la cena, il pranzo, eccetera, appunto utilizzando lo Zwiebelmuster, che per chi non sa è un modello di porcellana particolare che viene dalla Boemia, eccetera. E però è anche il momento in cui lei annuncia questo sacrificio personale che fa per sostenerlo, che è economico, e però lui ci rimane male, appunto perché vuole sentirsi completamente libero. Ecco, questa dualità: da una parte si sente attratto, dall'altra parte ha paura anche, no? Di essere fuso con questa donna, con questo sentimento. E allora è il finale, perché io uso anche una tecnica, e qui ci sono 26 o 27 capitoli, non mi ricordo neanche, capitoli tutti brevi, e la mia tecnica è di usare ogni capitolo, scrivere ogni capitolo quasi come se fosse un racconto a sé, e quindi con un finale che sollecita ad andare al prossimo capitolo. E questa è una parte finale di un capitolo in cui appunto è lì lui sconcertato che guarda questo Zwiebelmuster, dove appunto abbiamo le cipolle che fanno anche piangere e dall'altra però anche le cose belle. I capitoli sono 27, però Emma è celebrata per il suo senso estetico, però io faccio fatica a immaginare i crisantemi, le cipolle e i cuori insieme. Eppure funziona. Eppure funziona anche lo zio del mostro, ah, certo. Perché appunto sei lì, vuol dire che ha anche una sua storia, se è da qualche secolo, allora vuol dire che funziona. Il suo senso ce l'avrà. Allora, non riusciamo a dare una tonalità finale, unica, univoca, no, a questo romanzo, perché l'accordo dolce convivono sempre. Allora la domanda, visto che abbiamo citato l'amore come il momento nel quale meglio questi dissapori si conciliano, perlomeno lasciano intuire che la strada possa essere positiva, era l'unica via d'uscita da questo romanzo quella di citare un rapporto amoroso che probabilmente funzionerà in una terra lontana come la Sardegna, per chiudere o lasciare aperto alla riflessione del lettore sui teologo dolce? Beh, sì, perché alla fine io dico sempre, per quanto noi diventiamo personaggi pubblici, per quanto noi diventiamo famosi, per quanto noi diventiamo importanti e vendiamo pubblicamente la nostra immagine, come dicono i veneti, strucca strucca, alla fine quello che veramente rimane importante nella vita sono gli affetti. Quello che rimane è veramente quello che si ha a livello individuale, soprattutto in termini di amore e di amicizia. E quindi penso che sia veramente il messaggio anche giusto rispetto a tutto l'abbandono sociale. Alla fine è veramente quello che conta, i sentimenti umani primordiali. Abbiamo ancora un minuto per chiudere veramente puntuale questo terzo appuntamento della settimana con lo scrittore qui. E però l'ultima domanda riguarda proprio la materia da cui questo libro è fatta, cioè l'Alto Adige. L'Alto Adige è una terra fertile per gli scrittori, è una terra che ispira, è una terra dalla quale si può pescare per costruirci intorno storie. Se sì, perché? Beh, proprio perché è così varia, proprio perché c'è un incontro di varie culture. proprio anche perché è conflittuale e continua ad esserlo, ovviamente in termini completamente diversi, no? E quindi sicuramente è una terra fertile dal punto di vista degli scrittori, e del resto lo dimostra perché, insomma, abbiamo anche scrittori nazionali che si cimentano con la storia e con la realtà dell'Alto Adige. Quindi sì, la risposta è positiva. Italo Ghirigatto, Sintero Agrodolce. C'è una parte, prego, leggiamo la chiusura. Una domanda che non si fa sottili con questo. Premetto che sto leggendo un libro, lo trovo molto coinvolgente e interessante. Ti dico, perché Sintero oggi non l'Alto Adige Agrodolce? Perché la nostra terra, penso che sia giusto anche chiamarla Südtirol, perché è il nome originario. Poi l'Alto Adige è stato dato dopo, è stato imposto ancora da Napoleone, e quindi penso che se vogliamo ritornare all'anima di questa terra, bisogna anche riferirsi a questo termine Südtirol, ma anche perché appunto richiama le tematiche etniche che ci possono essere dentro. Pietro Ghirigatto è disponibile naturalmente a conversare con i lettori, e lo ringraziamo ancora con un applauso. Grazie ancora, Pietro Ghirigatto. Me l'hai fatto leggere. Grazie mille. Grazie, Che cala un asso importante, anche atteso da molti di voi, perché, come direbbe sicuramente Ettore Frangipane, giornalista, scrittore, saggista, lo conoscete da molto tempo, forse neanche lui, sicuramente lui non avrebbe mai pensato di arrivare al numero 10 di una serie che appassiona, perché è una serie dedicata ad una città come Bolzano, che non è New York, non è una metropoli gigantesca, eppure da 10 edizioni fornisce, attraverso le cronache dei giornali che vanno dal 1850 al 1950, continue occasioni di episodi, di racconti, spesso tangenziali, laterali rispetto alla grande cronaca, ma che sono poi quelli che rimangono molto impressi nella memoria, sono anzi forse i trafiletti che noi stessi, quando sfogliamo un giornale, andiamo a cercare. E Ettore Frangipane, con cura, con metodo direi più che altro, con insistenza, è andato a sfogliare, a compulsare questi vecchi giornali, spesso attraverso il microfilm, attraverso anche la rete, che ha reso molto più facile anche il suo lavoro, ed ogni volta è in grado di trovare strade nuove. Questo Bolzano scomparsa numero 10, la città e dintorni nelle vecchie cronache, ancora una volta manterrà le promesse, perché ha la capacità di mescolare, direi, no? Generi molto diversi. Ettore Frangipane, c'è sì la grande storia, ci sono i regnanti ad esempio, ma c'è anche la bicicletta e la mongolfiera, c'è anche la cronaca nera inevitabilmente, ci sono anche i fiori sui balconi e nei giardini della città di Bolzano. Prima di tutto la varietà. Vorrei che partisse da qua Ettore Frangipane. La varietà è la cronaca è tutto praticamente. Chiama un giornale oggi, cosa fa? Dopo aver letto i necrologi, io leggo i necrologi, si comincia così e si è sicuro, si incontrano degli amici. È come andare a spasso nel cimitero, no? Guarda Tizio, guarda Caio, non sapevo che fosse qua. Beh, insomma. Ecco, io sfoglio vecchi giornali che partono dal 1850, scritti ancora in caratteri gotici. A Bolzano ci stampavano 4 giornali, in lingua tedesca Bolzano, und Kries. Anzi, all'inizio erano 3 in comune, perché c'era anche 12.000, cioè 12.000, no? E leggendo quei giornali, sfogliandoli, si apprendono tante cose, le cose più varie, le cose più divertenti, le cose più curiose, le cose più tristi. E sono tutte cose che fanno parte di quel caleidoscopio che è la vita, la nostra vita. Ha detto all'inizio Paolo una cosa che mi è piaciuta, non ci siamo messi d'accordo. Ha detto che ho fatto il primo numero e poi ho avuto successo, sono andato avanti. In effetti il mio primo editore per questa serie è stato Praxis 3. E ho fatto il primo numero, è andato benino, e quindi ho fatto il secondo, è andato bene. Mi sono presentato allora al titolare, gli ho detto: senti, ne abbiamo fatti due, sono andati bene, facciamo anche il terzo. No, perché non sai, gli dico a quanti ne ho ancora da vendere. No, non mi ci trovo. Vabbè, basta. Ho cambiato editore, mi sono rivolto a Curco il Genovese di Trento, Nemo Profeta in patria, ecco. E così è uscito il numero 3, il numero 4, il numero 5, il numero 6, il numero 7, l'8, il 9, il 10, ristampa del numero 1, del numero 2, del numero 3 e termino qua. A questo punto mi sono detto, andare avanti ancora, mi sono anche un po' stancato, perché gratta, gratta, gratta, sono ormai al fondo del barile, come si suol dire, gli argomenti non ne trovo più. E allora ho pensato di lasciare. Il direttore dell'Alto Adige me l'ha vietato, me l'ha proibito formalmente: no, tu continui, tu vai avanti, tu vai avanti. Insomma, sto ancora raccogliendo sul giornale le mie rubrichette della domenica, escono e raccontano storie, le più svariate ancora, non so se continuerò. Comunque, siamo arrivati al numero 10. Quindi se noi calcoliamo, diciamo, almeno una sessantina di racconti, anche di più, sì, per ogni volume, 55-60, sono 600 almeno. Bravo, storie, matematica, Paolo Mazzucato. Per 10 è facile, se per 8 avrei avuto qualche difficoltà. Ho tirato fuori tanto di quel sur, questa rapa che è l'Alto Adige, che l'ho condensato attraverso la bellezza di oltre 500, sui 600 articoli in effetti. Altrettante situazioni le sto ancora scoprendo. Tra l'altro è qui presente in sala, e lo voglio sottolineare, il proprietario di Cappelli, il signor Lino Stefani, che è un mio affettuoso estimatore, e che ha attaccato fuori da Cappelli in Piazza Vittoria, me l'ha fatto vedere stamane, una targhetta che ricorda che nel 1947 lì si fermò Ernest Hemingway. È qui di passaggio a Bolzano e ha comprato libri per la bellezza di 10.000 lire del 47. Gli ho chiesto in che libro, in italiano, in effetti lui parlava italiano, i suoi primi romanzi. Sa la gioia del proprietario di Cappelli, forse non c'è una targhetta che ricorda la gioia del proprietario della libreria. Ah, sì, esatto, è una grande cosa. Hemingway sapeva l'italiano. Quando sono andato negli Stati Uniti a fare la cronaca delle gare di San Valley, da tanto all'Olimpiade, e lì vicino c'è il paesino di Ketchum, e sono andato a Ketchum per vedere dove si è ucciso, per vedere e rendere il mio omaggio alla tomba di Hemingway, che non ho trovato perché era tanta nel cimitero, e non sono potuto accedere. Mi hanno fatto vedere la sua villa lassù con la lucetta che restava accesa. Mi sono detto vado, non vado, sono profondamente timido in queste cose, e poi avrei dovuto parlare inglese. Bene, questo che cos'è? È questa cosa che vedete. Ah, anzitutto vi faccio vedere una cosa. Sarò implacabile questa sera, nel senso che posso andare avanti ad libitum. Gli altri miei compagni, prima, i miei colleghi prima, a un certo punto si sono sentiti dire musichetta e via, no? Ecco, da me niente musichetta, perché sarò io a disporre. Il direttore d'orchestra è lui adesso. Lasciamo la bacchetta in mano, vedete. Eravamo entrambi in drive. Avete capito chi lavorava, o meglio chi si imponeva soprattutto, ma non nel nostro ambito. Comunque ho deciso una cosa: quando la sala sarà vuota terminerò. Cioè alle 19.30, ve lo dico. No, decide tu. Bene. Prima immagine, questo è il Palazzo Ducale che voi conoscete. Perché il Palazzo Ducale? Perché è stato costruito durante i Savoia e durante il fascismo, soprattutto per testimoniare la presenza degli italiani qua. Prima c'era una villa tedesca di un germanico, la villa Wendland, è stata abbattuta, è stato costruito questo palazzotto sovradimensionato adesso per le esigenze. Ci hanno messo come segreto il governo che vale poco ormai a confronto con la provincia, no? E l'hanno affidato a Filiberto di Savoia Genova, che è un Savoia, che qui vedete con la felucca in testa, perché allora si usava così. Allora anche i diplomatici andavano in giro con la felucca in testa. Questo è il giorno della consegna al Savoia, Filiberto di Savoia, Genova, duca di Pistoia, del palazzo, nel 1935. E adesso andiamo alle varie pagine. Dunque questa chiacchierata che farò si articolerà su tutta una serie di fotografie e di immagini che ritengo siano interessanti e che vi esporrò, a licenza di interrompere Paolo Mazzucato. Che allora ti interrompo subito. Tirone Volksblatt, io qui un episodio che vorrei che ci raccontassi, che riguarda una disputa giornalistica tra il Tiroler Volksbund per l'appunto, che era considerato cattolico ortodosso, e la laica Bozner Zeitung. C'erano due fazioni all'interno dello Zeitung, e c'erano delle signore in particolare, siamo nel 1880 se non ricordo male, che andavano in giro per le case a raccogliere delle firme, perché c'era una grande paura, una gigantesca paura che aleggiava per Bolzano. Sì. Cioè, ha letto il mio libro, è bravo, perché ha letto il mio... non c'è la fotografia. No, è per quello che interrompo subito. Però ha letto il mio libro ed è bravo, dimostra di essere un vero professionista. Allora, cosa c'era? C'era che Francesco Giuseppe, nella seconda metà dell'Ottocento, aveva stabilito, lui, il suo impero comprendeva lingue, caratteri diversi, caratteri tipografici, religioni diverse, eccetera, eccetera, eccetera, e c'erano ebrei, luterani, cattolici, eccetera, ortodossi e via dicendo, e aveva stabilito che il suo impero, nel suo impero non doveva essere prevalente una religione, tutti i culti erano ammessi. La cosa suscitò l'indignazione del Tirolo, che come voi sapete il Tirolo è unico, è massiccio, è, ha una sola volontà e c'è una sola religione nel Tirolo. Qual è? Il cristianesimo. Cattolico, versione cattolica. Allora, dal pulpito, dai pulpiti si elevarono voci di indignazione, ma come? Tenete conto di una cosa, che l'istruzione era affidata quasi esclusivamente al clero cattolico, tra parentesi, ma c'erano anche dei laici che insegnavano. E a questo punto i cattolici si indignarono perché dissero che ci sarebbe stata la possibilità, che anzi sicuramente sarebbe avvenuto, che potendosi aprire la scuola anche alle altre religioni sarebbero venuti a insegnare in, non dico ad Adige, dico nel Tirolo, che non era il Sud Tirolo, perché il Sud Tirolo era il Trentino, allora nel Tirolo insegnanti protestanti e orrore ebrei. Avete capito? Quindi queste donne della buona borghesia, altolocata e aristocratiche, andavano, giravano di casa in casa per raccogliere l'adesione delle mogli, dei capi, chi insegnava, chi dominava in casa era il capo famiglia allora, quindi era una strutturazione assolutamente monocratica, direi maschile, della famiglia. Votavano solo gli uomini, ma le donne, secondo tanti, allora e forse anche adesso, avevano sempre la possibilità di incidere sugli uomini, no? Quindi si raccoglievano, queste donne raccoglievano le firme delle donne del popolo passando di casa in casa perché si escludesse la possibilità, il timore, il rischio che restituendo il Tirolo ad una sola religione gli ebrei avrebbero potuto prendere la mano. Io leggo solo questo a proposito della monocrazia che diceva Ettore Frangipane. È interessante vedere come il Bozner Zeitung laico voglia rassicurare e si rivolge alle donne con un certo sessismo, dicendo: casalinghe tedesche di Bolzano, punto esclamativo, è una vile bugia che si voglia eliminare dalla scuola l'insegnamento della religione. Però si rivolge a queste donne come casalinghe. Casalinghe, esatto. Comunque, lasciamo a Tirol Volksblatt, ti interrompo, prego. Ecco, la Tirol Volksblatt è importante questa pagina, perché guardate un po' la data. Adesso dove devo guardare? Qua su o qua giù? No, anche qui. Guardiamo qua giù. Allora cambio gli occhiali. No. Dunque, siamo nel 1800. Chi è che me lo legge? 89. Ecco, il titolo... Kronprinz Rudolf, con una croce. Rudolf von Habsburg è morto. Chi è? L'erede del trono? Famoso Rodolfo, figlio di Francesco Giuseppe, che si è ucciso si è ucciso, punto interrogativo. Questa è Maria Wetzel, che era baronessina di 18 anni, questo è lui, che era la sua amante, e sono stati trovati morti a letto a Meierling, no? E si è ucciso, punto interrogativo. Dunque, la prima notizia è che, torno indietro, la prima notizia dice che ha avuto un colpo. La seconda notizia che ha avuto un incidente di caccia. La terza notizia che si è suicidato e basta, insomma, non si diceva di più. Lo stesso giornale, lo stesso giorno, dava due notizie separate. Da una parte la morte di Rudolf, no? Dall'altra un piccolo lutto nell'aristocrazia viennese, si è suicidata la 18enne baronessina Maria Wetzel. Si saprà poi a distanza di tempo, e lo confessò, lo disse la zitta, che è la moglie dell'ultimo imperatore Carlo I, è morta negli anni 30 del secolo scorso, che si è trattato di un omicidio di Stato. Ma questo forse già ve l'ho raccontato, forse già lo sapete, cioè Rodolfo simpatizzava per gli indipendentisti ungheresi, era oltretutto un tipo molto trasgressivo, ne faceva di vari colori, era un po' alcolizzato, era malato, aveva una malattia venerea che aveva reso sterile, dopo aver avuto una bambina Elisabetta, aveva reso sterile Stefania, sua moglie. Ecco qua la moglie sulla sinistra di Rodolfo, che era una belga, e Stefanie per l'appunto, e Rodolfo sulla destra, e adesso ecco qua il marito successivo, un conte ungherese, marito successivo di Stefanie, che vedete sulla destra. Non l'avrei mandato sicuramente in un concorso di bellezza, ecco. Andiamo oltre, questa è un'altra storia che vi racconto in questo libro, che è curiosa, andiamo via rapidamente. Il mausoleo, no, il monumento, l'obelisco che vedete, è dedicato a Francesco Giuseppe. Doveva raggiungere la vetta dell'Ortles in occasione del 40° anniversario di regno di Francesco Giuseppe. Costruirono questo obelisco a Vienna, lo portarono fino sul passo dello Stelvio, una cosa molto faticosa naturalmente, ma non riuscirono a portarlo fino in vetta all'Ortles. Quindi, perché l'Ortles? Perché all'epoca era la montagna più alta dell'impero austro-ungarico, no? E lo lasciarono al passo dello Stelvio, poi alla fine lo bisogna posizionare verticale, e quando vennero i fascisti ne grattarono via, ne asportarono il bronzo che raffigurava Francesco Giuseppe, e ci misero una, e c'è tuttora, una iscrizione a impostazione del tutto nazionalista, nel senso fascista. Quindi, povero Francesco Giuseppe. Questo è un altro bel personaggio, questo è Milan I, re di Serbia, che venne, vi racconto brevemente la storia perché mi è piaciuta, è venuto in vacanza a Dobbiaco, era molto considerato il re di Serbia perché la Serbia era concupita contemporaneamente dagli austro-ungarici e dai russi, dallo zar, e lo volevo festeggiare. La banda musicale di Dobbiaco però non conosceva l'inno nazionale, nessuno aveva l'inno nazionale serbo, come facciamo se non conosciamo l'inno nazionale serbo? E allora il maestro, il concertatore, direttore d'orchestra della banda musicale di Dobbiaco andrò da uno del seguito e dice: mi fischietti l'inno nazionale? Quello lo fischiettò e quindi la banda di Dobbiaco poté esplodere nelle tonanti volte, note dell'inno nazionale, e fu un momento di gioia questo, naturalmente. Oh, questo è un momento di grande gioia. Questo personaggio, perché vi faccio vedere? Perché ho voluto mettere un po' in fila i grandi personaggi che passarono lungo l'asse del Brennero. La ferrovia era stata aperta nel 1859 nel suo tratto nordico. Questo sa di Persia, riduce da Parigi, era passato per Torino, poi passò anche per Bolzano, e quando arrivavano questi personaggi a Bolzano, la comunità di Bolzano ai massimi livelli naturalmente si esaltava. Si trattava allora di andare al Bahnhof tutti in fila a suonare inni nazionali e cose varie, applausi, stretti di mano. E anche nel caso dello scià di Persia, che voi vedete qui raffigurato per quel verso di zona compiaciuto, la cosa avvenne con grande delusione degli astanti, perché lo scià di Persia snobbò tutte queste cose qua, non scese dal treno. Leggo la Bodner Zeitung che Paolo prima ha citato. Lo attendeva la compagnia di Kaiserjäger, il corpo ufficiale, il consigliere di corte barone a Prato. Era a corte del Granduca di Toscana, che era un Asburgo, che era un italiano praticamente, in uniforme di gala, rappresentanti del comune di Bolzano e folto pubblico. Nei contatti, scrive il giornale, che è rimasto piuttosto sconvolto da come si presentavano questi personaggi persiani, oggi sarebbero iraniani, nei contatti con questa gente si dovrebbe fare il corso a polvere insetticida. Viva l'accoglienza, viva l'accoglienza. Viva l'accoglienza, ma c'è di peggio, come rispondono loro. Un cortigiano, sceso dal treno sul marciapiedi, si è fatto portare una bacinella d'acqua nella quale ha immerso la testa, sputacchiando poi il liquido tutto attorno, cosa che potrà essere consueta in Persia, ma non qui, in particolare durante un'accoglienza ufficiale. Questa è stata una delle perlette che ho raccolto dalla vecchia stampa, e questa è la vera perla. Però questa, io speravo che questa foto ce l'avessi, non c'è nel libro, e quindi è un'altra ancora. Nel libro ce n'è una simile, ma rende l'idea. È sempre lei, però. È sempre lei. Dovete sapere che lo scià di Persia aveva sani istinti erotici, aveva 84 mogli ed era andato a Parigi per assistere agli spettacoli osè che Parigi allora offriva. Vedete come ha vestito una delle sue mogli, ispirandosi evidentemente alla nudità delle ballerine di Parigi. Questa è la fotografia fatta da lui perché la regina Vittoria aveva regalato allo scià di Persia una macchina fotografica, e lui comincia a fotografare le sue amanti, diciamo le sue mogli. Questa è un'altra moglie, già meno impresentabile. Questo naturalmente a fianco suo è un eunuco, posso supporre. Non ho guardato dentro i pantaloni, ma posso immaginare che fosse un eunuco, perché così si usa in quei tempi e in quel luogo. Questa è la stessa, questa c'è anche, vedi che hai scelto bene, è meravigliosa, ha anche i baffi, si guardate bene, no? Però io spezzo una lancia a favore di Ettore Frangipani, anche di questa signora, perché Ettore giustamente non dice che è brutta, dice che i canoni estetici erano molto diversi, e non è una cosa, non è una cosa sbagliata, non è bello brutto, sono canoni estetici, insomma, era piacevole. Una donna, una dea nuda raffigurata da Rubens, tutto bello ciccioso, io penso che non susciterebbe l'attenzione di nessuno dei qui presenti signori. La mia, no. Andiamo avanti, i canoni estetici hanno il loro peso. Oh, questo è bellissimo. È passato anche lui qua, da queste parti. Questo è Guglielmo II. E passavano questi signori con re di Prussia e di Germania poi. Passavano quindi loro lunghissimi treni, si fermarono qua, sempre accorrevano le autorità bolzanine per omaggiare questi personaggi che alle volte ci stavano, alle volte no. Sono passati re del Belgio, della Sassonia più volte, dell'Olanda, della Serbia, come avevo detto prima, insomma anche il Guglielmo II. Sapete, a parte la bellezza di questa immagine con quell'aquila in testa, che per me valgono un regno, ecco, c'è chi ha detto, Riccardo III, il mio regno per un cavallo, questo qua è il mio regno per un uccello, non è lo Spirito Santo, no. Anche per un bel paio di favoriti, i classici baffi a manubrio, no? Ecco. Notate una cosa però, è una fotografia in un certo senso impietosa, perché fa vedere una cosa che nessuno sa, e che si lo sa. Ecco, la professoressa Bea sa cantare molto bene, ma conosce anche storie come questa. Aveva un braccio più corto dell'altro, il sinistro, vedete, sopra questo profilo è da compatire naturalmente, era un povero uomo, no? Che poi si rifaceva con grandi proclami, grandi storie, ed era anche in parte atrofizzato, quindi il braccio sinistro gli serviva per appoggiarlo sulla riccia della spada. Andiamo avanti, questa è la Regina Vittoria, è passata anche lei di qua. Adesso vi leggo un pochettino, è passata di qua perché è andata ben 3 volte a Firenze, era innamorata di Firenze, dove si faceva ospitare dalla aristocrazia locale, e si faceva precedere da un treno normalmente, che portava le cose alle quali lei teneva, si faceva precedere da un treno che portava argenteria, porcellane, posate, la sua scrivania coperta di marocchino verde, vasca da bagno, si portava presso la vasca da bagno, la sedia a dondolo, fotografie soprattutto di suo marito, che era vedova lei, no? Alberto, e che ha un asinello. Cosa servisse l'asinello non ho capito, ma queste sono cose che scriveva la stampa francese, Le Figaro in particolare. Dunque il treno di Vittoria, uno dei treni di Vittoria, che transitò qua nel 1888 diretta verso nord, era composto da 10-15 vagoni a seconda delle fonti, 2 locomotive lo trascinavano, e al Brennero ci furono dei problemi perché avevano indicato moltissimo ed erano cadute delle valanghe al di là del Brennero. A Innsbruck la attendeva e fanziose, no, per un incontro è molto importante evidentemente, e allora come fare, come non fare, le ferrovie, la Südbahn era il nome della ferrovia del Brennero. Allora la Südbahn si diede da fare e scavalcarono la valanga portandomi sopra i binari, e quindi il treno scavalcò la valanga e poté proseguire, e la Regina Vittoria poté essere omaggiata da Francesco Giuseppe. Questo è un altro regnante, questo è molto importante perché non venne mai con pifferi e tamburi in Italia, venne vestito da alpinista, era un notevole alpinista, Alberto del Belgio, che scalava le nostre montagne, era innamorato delle Dolomiti. Scalava, e qui lo vedete al centro, a destra c'è Tita Piaz, non so se avete presente, il diavolo delle Dolomiti, era molto conosciuto, della Val di Fascia, era la sua guida. A sinistra c'è invece una grande alpinista e sciatrice di Bolzano, che era la Paola Wiesinger, che è morta, mi pare, non molto tempo fa, vero? Paola Wiesinger, esatto. Questo è lei. Vittorio Emanuele III, lo vedete ultimo? Vittorio Emanuele III, che mangia il topper per Merano, e poi vi voglio raccontare un altro episodio curioso. Venne nel 1921 in Alto Adige per vedere questa sua nuova provincia, la provincia di Bolzano per l'appunto, che aveva preso nome Alto Adige, come si è ricordato prima, dai francesi, quindi non è vero che sono stati in posizione fascista, diciamo che in epoca fascista si è rinnovata la terminologia di Napoleone, il dipartimento dell'Alto Adige. E andarono fino al Brennero per rendere omaggio al confine, al cippo, tutte queste cose qua. Vedete il re piccolino, la regina Elena, grandi problemi nel fotografare il re, perché era alto 1,59 e non lo si doveva far vedere. La regina era altissima, era molto alta, era stata scelta come sua consorte proprio in funzione della sua dimensione, era alta Elena del Montenegro. E dopo aver reso omaggio al confine, al sacro confine della patria, ecco che la regina tornò in treno, no? E invece il re in macchina salì fino al passo del Giove, discese lungo la Val Passiria, si fermò a San Leonardo a rendere omaggio alla casa di Andrea Schoffer, pensate un po', e ci fece la firma e proseguì, se ne andò per Merano. Quando andai una volta alla casa di Andrea Sopra, chi per leggere il diario, la raccolta delle firme di quelli che erano passati di là, e dicevo, niente, non sapevano parlare italiano. Ecco, andiamo avanti. Ecco, questo l'abbiamo già visto, è visto che parliamo di... questo era così. A Bolzano, nella seconda metà dell'Ottocento, sono arrivate le biciclette. E il primo meccanico a Bolzano che vendette biciclette era il signor Wachtler. Questa era una delle biciclette di allora. Più difficile era naturalmente salire in sella, o ti appoggiavi al muro, oppure più bravi riuscivano a correre e saltare di corsa. Ma anche smontare. Anche soprattutto scendere in basso. Smontare soprattutto. È un po' dura, che rialzo se ne rende conto. Questo qua è uno sportivo bozzolino sempre in bicicletta. E questo mi piace tantissimo. Questi sono ciclisti Balilla ciclisti. Io ero Balilla, no, sono stato Balilla ma semplice. Come figlio della lupa ero tamburino. Passavo per stare di Bolzano sono del tamburo. Invece come Balilla fui anche Balilla, non mi diedero nessuno. Questi invece avevano una particolarità che io non avevo all'epoca, la bicicletta. E quindi sfilavano per piazza Walter, come vedete, in bicicletta. Il bello, tutti guardano alla loro destra, perché evidentemente qua c'è l'autorità, ed è bello questo momento sulla sinistra, dove chiaramente si vede che uno dei due ragazzini, quello dietro, sta alzando un braccio nel saluto fascista e sta investendo. Stanno convergendo uno addosso all'altro. Dietro a tutti i primi giochi di quel ragazzino, però qui c'è una foto. Non so se l'hai messa nella raccolta. Vale. Hai citato il fatto che anche tu hai passato quel periodo, quella storia. C'è la tua foto? C'è la mia foto. C'è. L'ho già fatta vedere, se poi la farò vedere. La fai vedere, è una serie. Quando vedrete una foto d'applauso, per favore. Capirete chi è, anche a parte va bene. Parlo di biciclette, vedete, questo per farvi vedere come il fascismo ha fatto del male, ha fatto del bene, ha fatto più male che bene, però per certe cose è stato, ha progredito, ha fatto progredire, ha precorso il tempo. Questo è Corso Giulio Cesare, che all'epoca, che adesso si chiama Corso Italia. Allora grazie, guarda che mia moglie non vuole che beva grappa. No, ma... E ancora Non so che tra il pubblico faccia pensare di più. Allora, a queste vie Cesare Battisti, vedete che quell'edificio a sinistra è il tribunale che si sta costruendo, no? A destra c'è il Cristo Re ancora senza campanile. Ancora senza campanile. Quella davanti? Quella è Palazzo Rossi, questa è Piazza Mazzini. C'era già Piazza Mazzini, Palazzo Rossi, esatto. E questa è la cosa che voglio sottolineare, che erano le prime piste ciclabili di Bolzano. C'è tuttora, eh? C'è tuttora. All'epoca ci camminavano sopra i passanti. Che non come adesso, ma adesso non osano più, i ciclisti andavano in strada. Oggi se andassero per la strada si verrebbero appiattiti. Questo è un personaggio molto bello. Vediamo l'orologio. Siete autorizzati ad alzarvi ed andarvene alla spacciolata, però ci sono delle belle cose ancora da vedere. Questo si chiama Blondel ed è un si può dire astronauta, no? Diciamo. Un aviatore. Un aviatore. Va col pallone. Pallonista, no. Un guidatore. Di francese, con i suoi bravi baffi a manubrio, ed era venuto a Bolzano per fare una cosa fantastica, unica, una Luftschifffahrt. Henry Blondeau, ecco il suo nome. Morgan, domani, domenica, alla piazza delle esercitazioni Gini, che sarebbe, c'era la Tuchplatz, si chiama ancora oggi così, in fondo a Via Orazio di oggi c'era tutto un prato, si chiamava Tuchplatz perché le signore allora vi stendevano i panni dopo il bucato al sole che si asciugava, che si asciugassero. Suona la Feuerwehrmusik, suona la banda dei Vigili del Fuoco, e questa bombolgira avrebbe sorvolato Bolzano, cosa che effettivamente avvenne. Per due giorni, tre giorni, questa bombolgira si alzava, raggiungeva una zona a nord di Bolzano, prendeva terra a Castelbronco e dintorni, fece anche dei danni ad un vigliaiolo che protestò moltissimo, e lui sopravvisse, se ne andò avanti questo Blondeau con la sua mongolfiera, finché un'ultima volta si sollevò in volo a Ragusa, nei pressi di Ragusa, prese un colpo di vento e morì. Questo è semplicemente un gasthof, il Gasthof Baden, che si trovava dove adesso c'è Piazza 4 Novembre, e perché ve lo raffiguro, è stato abbattuto, perché ve lo propongo? Perché c'è stato un progetto che era andato anche abbastanza avanti nel tempo per costruire una ferrovia Bolzano-Sarentino. Ecco, la ferrovia secondo i piani doveva partire da Bolzano, per l'appunto dall'hotel, dal Gasthof Baden, percorre per la Fiore via Cadorna, poi nella valle, una galleria dopo l'altra, e un certo tratto lo avrebbe percorso a cremaliera, come sarebbe voluto più tardi per la ferrovia del Nord, per raggiungere il centro di Sarentino e una miniera di fluorite che si trovava in zona e che era di proprietà inglese, e il progettista e la società di questa che costruì, che avrebbe dovuto costruire questa ferrovia, era in effetti inglese. Altri mezzi di turismo, questo qua è la Transtesina, questi qua erano i pullman della Transtesina. La casa che vedete sulla destra, adesso c'è quella orrenda costruzione che ospita la Cassa di Risparmio. Allora c'era un hotel che era questo, l'hotel Kreuner. andiamo avanti. E questa è un'altra cosetta curiosa, non solo per la marcia dei fascisti. Sapete perché? Vedete che questo primo personaggio, tra l'altro, ha una fascia di colore azzurro. Sapete perché gli azzurri si chiamano azzurri? Perché i militari si mettono la male volte per tenere feste una fascia azzurra di traverso, perché l'azzurro era il colore dei Savoia, tra parentesi, ecco, lo potete raccontare in giro, perché c'è una grande figura ancora. Gli edifici che sono sullo sfondo, dunque, dove è stata scattata questa fotografia? È stata scattata in Piazza Vittoria. Gli edifici sullo sfondo, di stile, come si diceva allora, anzi, non si dice tuttora, barocchetto romano. E sono stati spianati e trasformati in cubi secondo lo stile nazionalista, raffigurato tra l'altro da De Chiri, quella che in tante situazioni, e oggi sono le incis. Le incis di Piazza Vittoria erano così, sono nate così. Non erano male comunque. Applauso. Modestamente sono io. All'inizio della mia carriera di fascista, la M sul petto vuol dire non mamma, ma Mussolini. Mio padre, per mettermi quelle fasce incrociate bianche, impazziva perché mi entravano da una parte, uscivano dall'altra. Mio padre non era solito bestemmiare, anzi non bestemmiava, non bestemmiava affatto, ma avrebbe bestemmiato. Io posso dirvi di questa divisa di una cosa: i calzettoni verdi erano senza piedi, coprivano solo i polpacci, no? E si era in periodo di povertà diffusa, c'era l'autarchia, la lana non c'era, questa era il Lanital, la stoffa con la quale si costruiva, si tesseva, e il Lanital era fatto con la lana, con latte, e pizzicava, voi non avete idea, su queste gambette nude quanto mi pizzica, e i pantaloncini erano verdi, pizzicavano anche quelli. Posso chiederti una cosa? Dimmi. Che effetto ti fa vederti in quella divisa lì in quegli anni? Al di là della pizzicone, che effetto ti fa? Un effetto direi quasi epico. No, perché non mi ci riconosco naturalmente, non posso essere io, ero bello. Mia nonna mi diceva, era Tatangere, che bello piccioletto mio, andiamo avanti. E questa è la mia pagella invece, come vedete l'anno era il 42-43, ventunesimo dell'era fascista. Quel EF non vuol dire Ettore Principale, ma vuol dire era fascista. L'era fascista cominciava nel 1928. Siamo in periodo di guerra, le mie tabelle, le mie pagine erano sempre bellissime, sullo sfondo la guerra a sinistra d'Italia laboriosa sulla destra. Andiamo ancora avanti, queste qua sono ginnaste bozzaline, incominciavano nel secolo scorso, anzi due secoli fa, nel 1800 seconda parte, i bozzanini a fare ginnastica, c'era il Pulfara in Pozzo, che era molto molto attivo, c'era anche il Turfara indiano a Bolzano, che era cattolico. Il Bolzano era nazionale conservatore. Quello una volta le società sportive presero, erano votate molto al nazionalismo, perché sono nate come fucina di allenamenti, di addestramento da impiegare militarmente. Le prime società sportive sono di origine francesi, perché sono stati i francesi i primi a disporre di un esercito nazionale, poi sono passati in Prussia e roba del genere. Ecco. Alle donne furono aperte le palestre, anche a Bolzano, naturalmente il pubblico molto ridotto, gli uomini non potevano guardare, eccetera, e quando si esibivano non era consentito ai maschietti di andare sulle gradinate, e però i cattolici naturalmente si opponevano a questa cosa, e ci sono stati medici e luminari e professoroni che hanno stabilito che lo sport delle donne fa male. Niente sport. Questa è un'altra forma. I fascisti invece rivalutavano lo sport durante il fascismo, durante il vecchio ventennio, si praticò molto sport. Voglio farvi vedere da questa pagina della Domenica del Corriere, vedete sullo sfondo a sinistra il Sasso Lungo, a destra il Sasso Piatto, e questi erano i littoriali della neve. Littoriali della neve, quindi erano giovani fascisti che si impegnavano nelle loro gare. Adesso sarà veramente, mi tengo ancora 5 minuti, poi ce ne andiamo, perché sennò veramente facciamo mezzanotte. E questo è, lo sapete riconosciuto, no? Questo è Walter von der Vogelweide, che era all'origine sulla Wassermauer, promenade, cioè sul lungo d'Albera a sinistra, là è stato costruito. Anzi, non sto confondendo adesso, sto confondendo con il Laurino. Questo invece è ora che termini. Questo invece è proprio il Walter von der Vogelweide, costruito nel 1888 in Austria, traslato a Bolzano e retto in piazza Walter, che allora si chiamava Johannsplatz e poi si sarebbe chiamata Walterplatz, e durante il fascismo fu preso e trasportato altrove, trasportato nel Parco Rosegger, nel quale si trovava ancora alla fine della Seconda Guerra Mondiale, non so se ve lo ricordate voi, vicino a Ponte Druso. Questo è Druso, che avrebbe potuto prendere il posto di Walter von der Vogelweide in mezzo a Piazza Walter, che nel frattempo era stata chiamata Piazza Vittorio Emanuele III. Ci sarebbe dovuto andare Druso, che non piacque però, perché sembrava più tedesco che italiano. Guardate qui molto da Dorico Cefalo, e braccio alzato all'insegna di Roma, naturalmente. E chi è che l'aveva modellato? Chi è che l'aveva proposto? Pifrade, Hans Pifrade, che si è firmato Giovanni Pifrade sul grande bassorilievo di Mussolini, con Mussolini a cavallo in piazza. E non era piaciuto, quindi ci siamo risparmiati questa cosa. Qui c'è ancora Saluto Romano, ma questo, perché vedete sulla sinistra, è il Duca di Pistoia, reduce dalla campagna d'Africa quando è stata conquistata la Abissinia, 1930 qualche cosa, cioè mi ricordo la data di questa fotografia, e lui aveva comandato, pur essendo un Savoia che era nell'armata alternativa al fascismo, e lui aveva comandato una armata di camicie nere, e vinse al comando di queste camicie nere, vinse la battaglia dell'Ambaradam. Quando sentite dire Ambaradam, che occhio casino, Ambaradam, è preso il nome da questa Ambar, da quella battaglia. Andiamo avanti ancora, finché avete pazienza, questa l'avete già vista. Questo è, adesso vi dico come si chiama, Almo Vanelli, è stato segretario del partito fascista Alto Pesino dal 1935 in poi. E sapete perché sono inciampato in questo Almo? Perché ho scoperto in un internet che veniva dalla Paolo Mazzocato, è stanco. No, io ascolto, cioè non sto facendo nulla, quindi io ascolto. Ma io quando parto, in perverso, la notte non faccio dormire mia moglie, o no? No, potremmo chiederlo, è insana. Se è insana, lei dorme, io no, perché penso a queste cose. Questo sono arrivato a lui perché in internet ho scoperto la vendita di un, le chiamano, come le chiamano, militaria in, negli Stati Uniti, vecchie armi divisero, le chiamano militaria, e c'è un mercato di militaria, e ho scoperto, vendevano un fantastico pugnale d'argento, acciaio argento, con impugnatura d'avorio, che ho fotografato, lo trovate nel libro se vi interessa, donato dalle Camicie Nere dell'Alto Adige ad Albo Vanelli, che era il loro segretario. E allora ho letto la storia di questo Albo Vanelli, e gli voglio leggere cosa scrisse a suo proposito, a proposito del suo insediamento, la provincia di Bolzano, organo del partito fascista Alto Adigesino. Ecco, in questa nostra provincia, che il valore e il sacrificio dei combattenti raccomanda all'affetto degli italiani, in questa terra il fascismo ricongiunge spiritualmente a Roma, Almo Vanelli, regge, mutilato, vedete che gli manca la mano sinistra, squadrista, appare degno di assumere un posto di così alta responsabilità, il festoso augurale Alalà. Sapete cos'è Alalà, no? Elia, Elia, Alalà. Siamo 30 di una sorte, 31 con la morte. Elia, ultima, Alalà. Questo è D'Annunzio. Un augurale Alalà con il quale le Camicie Nere salutano la sua assunzione alla segreteria federale, gli impegni di indefettibile devozione di fede nei festini dell'Italia di Mussolini. Mi è scappato festini, e doveva essere festigi, penso, o fastigi, meglio. Però le mie dita sono andate contro loro e hanno tradotto questi fastigi in un festino. Vabbè, forse siamo a confusione, ma questi sono simboli. Ho parlato anche della guerra di Spagna, questo per farvi vedere dei bombardieri italiani che combattevano come anche le Camicie Nere italiane, senza impegnare la maniera facile o del genere. Vedete che sulla coda c'è una X praticamente, no? E bombardavano, hanno bombardato anche Guernica, tra l'altro, si dice solo dei nazisti, ma anche i fascisti l'hanno fatto. Queste sono fotografie che vi propongo con una certa devota attenzione, perché sono siamo in Africa adesso, seconda guerra mondiale. Questi tre ro ne hanno fatti migliaia, migliaia, ne hanno costruiti in Italia, sapete dove? A Bolzano. Tutti i tre ro dell'esercito, del regio esercito, sono stati costruiti a Bolzano. E la lancia continua a costruire anche dopo l'occupazione tedesca autocarri per i tedeschi. Vedete, prima il freddo, il caldo dell'Africa, poi il freddo della Russia. Questi, siamo nuovamente in Russia, anzi siamo ancora in Russia, è un treno adattato a lanciarazzi. I lanciarazzi erano sovietici, sono stati presi dagli italiani dall'Armir come preda di guerra e venivano lanciati, impiegati contro coloro che li avevano costruiti. Queste sono cose che non si sanno. E questo è un treno adattato a contraere. Questa è la chiesa dei domenicani, che io sapete, sulla sinistra ancora non c'era. Cristo Re, era un domenicano. No, la chiesa classica dei domenicani, di cui avete ragione, è quella di Piazza. Voltranini dicono la chiesa dei domenicani o Cristo Re. E Cristo Re, appunto. E davanti vedete che manca ancora lo Spirito Santo e il Padre e il Figlio, quel nostro rilievo di Gavlone. Qua siamo al Semirolai, questo è il personaggio che possiamo farvi vedere. È interessante, questo chi è? Qui siamo al lago di Carezza. Sul retro del libro, che io qua in mano, c'è un quadro da lui dipinto. L'ho messo sul retro perché ha colori. E il fotografie dentro sono tutte in bianco e nero. Allora, questo è Winston Churchill che veniva, è venuto al lago di Carezza, allo grande per Carezza, per un periodo di ferie, scortatissimo naturalmente, dipingeva, dipinse panorami vari tra cui il lago di Carezza, e corse voce allora, corse voce, siamo nel 1948, che fosse venuto qui per tentare di recuperare la sua corrispondenza con Mussolini, che sarebbe caduta nelle mani dei tedeschi. Con particolare riferimento a quel ufficiale dell'SS Spengler che abitava al Renault. Però non se ne sapeva niente, non se ne sapeva niente. Ecco, questo è Churchill. Guardate, c'è la macchinetta che si è staccata. Voi siete ancora là, la macchinetta si è staccata. Allora, l'ultima domanda che la faccio io, visto che non c'è la macchinetta, non ci chiudiamo con questo, perché siamo passati anche attraverso la seconda guerra mondiale, il fascismo. Tu ricordi che la prima donna avvocato in Alto Adige, è in fondo importante ricordarla, perché proprio in Alto Adige fu iscritta all'ordine degli avvocati, e proprio dall'Alto Adige fuggì, e non sopravvisse alla sua origine. Era ebrea, veniva da Vienna, si era rifugiata a Bolzano, perché a Bolzano gli ebrei erano ancora considerati. Che pagina è, per favore? 96. Allora, Amalia Fischer, sì, pagina 96, eccola qua. Non è Fischer come hai detto tu, ma è Fleischer, ho scritto sbagliato. Qua siamo a Faenza. Qua siamo a Faenza e Amalia Fischer dovette fuggire da Bolzano dopo le persecuzioni, dopo le leggi razziali del 1938, si rifugiò a Faenza, una città dove c'era una certa colonia, Faenza, io conosco Faenza, una famiglia Faenza, che di là è origine, che è probabilmente ebrea, e trovò ricetto presso un convento di suore che la coccolava, la coltivava, le insegnava lingua, insegnava tedesco, finché non fu, c'è sempre qualcuno che è più furbo degli altri, crede di essere, non fu denunciata la sua presenza presso le suore all'autorità fascista, e quindi questa povera donna fu arrestata, fu trasferita a Auschwitz, dove morì nel 1944. Ecco, non l'avete vista perché ha superato il mio posto. Però è stata la prima donna iscritta a Bolzano. La prima donna iscritta all'ordine degli avvocati di Bolzano è stata Amalia Fischer, ebrea austriaca, naturalizzata italiana, partita per Auschwitz e Limorta. Io vi ringrazio dell'attenzione. Siete tanti ancora. Grazie a Ettore Frangipane, Paolo Mazzucato per la liberazione, grazie a voi per la partecipazione. Rispetto per domani, la carrellata dei nostri scrittori continua. In mattinata abbiamo due scrittori psicoterapeuti, il dottor Ferrero e il dottor Maiolo, e nel pomeriggio chiudiamo con il soldo per